sono abbastanza i camionati, ma i camionati sono abbastanza qui. Brecco, lasci qua la frequenza, lasci qua la frequenza. Brecco, brecco. Brecco, brecco. Brecco, brecco. Avanti, brecco. Por ahí, que no sea de fuera. Attento, hermano, vamos a ver si escuche la Italia, cambio. Brecco, brecco, alguna estación de España. Attento, España, España, vamos a ver si escuche la Sardegna. La Sardegna che te succia, cambio. Attento, Spagna, Spagna, se succia l'Italia, la isola della Sardegna che te chiama, cambio. Oh, CQ10. Adelante, brecco, brecco. Adelante, brecco, brecco. Vanno tra le, brecco, brecco. Oh, c'è qua la frequenza, c'è qua la frequenza. La Sardegna chiama, cambio. Gianni di Sosso, mi ascolti, operatore Giovanni Stanco, chiama Gianni di Sosso, cambio. Ebbè, Giovanni. Ehi, senti, Davigui, come va? Buonasera. Ci va avanti, ci va avanti. E tu? Ma, sei Giulio? Oh, Gio Maria sono. Oh, Gio Maria, buonasera, e allora lì, non ti inviami. Tu, tutto bene, signor Giovanni, tutto bene. Mi stavo facendo un giretto su questi canali, ho parlato con la, come si chiama lì, con la Sicilia stamattina, con la Calabria, ma due minuti, perché poi sono venuti amici, ho dovuto mollare. E adesso stavo parlando un po' con la Spagna. C'è una bella propagazione stasera. C'è un po' di propagazione, già c'ho da parecchio che sto ascoltando, anch'io ero su 36 e per cui c'erano gli spagnoli, c'erano. Poi anche il coso, anche la, come si chiama, il Portogallo c'era. Ma stavo ascoltando, però non ci ho parlato, stavo ascoltando e basta, già va. Io dovevo fare come ho fatto io. Mi sono attaccato con un francese, cos'era, no, a molta risposta, invece che si stava divertendo anche lui. L'uno non capiva l'altro, però siamo stati almeno 5 minuti parlando, lui nella sua lingua e io nella mia lingua. Non ci siamo capiti, però ci siamo fatti una bella conversazione. Ogni tanto già ci vuole, là. Però magari per me è un po' difficile perché sono già stufo di parlare fuori, capito? Ormai sono anche stanco di questo apparecchio, però mi piace ascoltare, capito? A parlare no, però ad ascoltare mi piace molto, per cui ogni tanto lo accendo e ascolto così, quando c'è gente, quando non c'è nessuno, vengo e faccio altre cose. Signor Giovanni, già fa bene, sì, intanto cosa vuoi fare? Niente, io era un po' che non lo accendevo, siccome adesso, niente, lo volevo mettere su un camion, perché adesso sono entrato a lavorare nuovamente col camion, e niente, ho detto che ci può andare a vedere, e così, niente, non riacceso, io ho visto, e stamattina ho parlato con Gianni Di Soso, magari vi conoscete pure. Tu a sei giovane ancora, così che... già ce l'hai la voglia di chiacchierare. Ho messo quasi 56 anni in frequenza, così che ti puoi immaginare, giovane, poi c'ho una certa età, io non sono giovane, capito? Per cui non ho più voglia, capito, a chiacchierare, mi faccio solo ascoltare, basta. Prima è a chiacchieravo, ore e ore attaccato a questo disco, ma adesso non ho più voglia, capito? E io la mantengo ancora, signor Giovanni. Comunque le devo dire una cosa, ieri stavo, sì, proprio ieri, sono rientrato dalle gallerie, rientrando a Sassari, ok? E cioè era tutto quanto bloccato, ci hanno deviato a Scaleggioca, fortunatamente lo scarico e sono salito bene. Al ritorno però, che dovevo nuovamente prendere le gallerie per uscire in direzione Cagliari, niente, chiamavo il malacchino tramite un amico, non c'è stato un cane che l'ha risposto, tutti quanti hanno il barracchino e nessuno va via, nessuno va via, io non so, infatti la mia ragione va a vedere per cui io ci mangiavo con Gianni Di Soso. Il barracchino lì, non c'è mai nessuno, non c'è mai nessuno, era la mente che stanno entrando i Sassari, ma prima tutti i canali erano occupati, adesso non c'è più nessuno, però ogni tanto se entra qualcuno gli ha fatto piacere, Giovà. Scusa che il telefono, Giovà. Vada tranquillo, già rimango per un po' in attesa, dai, vada tranquillo, faccio un giretto ma sono sempre qua, già torno su 10. Giovà. Giovà. Ti ascolto, signor Giovanni. Dai, sta venendo gente, dai, ti devo lasciare, purtroppo. Comunque, mi ha fatto piacere, ti ho risentito, Giovà. Buon proseguimento, serata e tante cose belle in casa, dai. Ci sentiamo, Giovà, chiudo. Saluto, signor Giovanni, dai, ricambio tutto quanto e buon proseguimento di serata anche a lei, saluto. Ok, ciao. Accetto l'ico, butta giù la frase, è pronta. Accetto, buoni